L'Extreme! Sì. Bella delirio! Questa è una dedica speciale a tutti i miei fratelli, quelli che stanno giù con me dal giorno 1. Bella Overlord, bella Lucio, bella Sweeter, bella TNC, bella Wild Sound, bella tutto il CRN Crew, escluso nessuno, ragazzi. Questo è per voi! Pezzone dedica speciale a tutti i miei fratelli, CRN Crew, 32 bis, Foggia sul posto. Per tutte le nostre serate, per tutte le nostre cazzate, per tutto quello che abbiamo costruito in questi anni, con le nostre mani, non dobbiamo niente a nessuno, raga, niente a nessuno. Questo è per voi che state con me dal giorno 1. Quelli che in tasca non c'hanno i soldi ma c'hanno il fumo. Quelli che per stare qui con me si son fatti il culo. Quelli che hanno strinto i denti per darsi un futuro. I miei occhi rossi, frate, sembro un panda. Al primo disco d'oro porto il crew in Olanda. Lo so, per l'obiettivo la distanza è tanta, ma tanto poi ci arrivo e grido ciao mamma. Per tutti i fratelli che ancora sperano in un futuro, brindiamo per tutti gli cuori spaccati contro il muro. Questa va per tutte le serate passate parlando di scopate, rappando le peggio puttanate, e soprattutto lontano da ste puttane. Ciao. Non chiamarmi amore, non lo voglio il tuo cuore infame. Ogni rima è dinamite, viaggia tipo meteorite. Sappi che saranno finite il giorno che voi stronze morite. Lontano da certe persone, CRN Crew Family, respect my family, zio. L'abbiamo sempre fatto con dignità, sempre. E soprattutto abbiamo sempre chiuso la bocca di certe persone che non hanno mai fatto un quarto di quello che abbiamo fatto noi e continuano ancora a parlare. Un calciatore vero risponde sul campo. I miei amici sono 13, fortuna mia. I tuoi sono 113, manco la polizia. Ho preferito stare con amici pochi ma buoni, lontano da gente coi milioni, siete dei buffoni. Non vogliamo voi ma i vostri soldi, noi viviamo alla giornata immersi nei ricordi. Nonostante tutto siamo gli stessi di sempre. Dopo tanti anni ti giuro è cambiato poco e niente. Randacci come cani, sempre tali e quali, strada senza avere orari, sognando dei giorni straordinari. Questa la dedichiamo per chi non è più qua, perché ha sperato nell'amore rinnegando la sua verità. Come la mettiamo? Ti consiglio di aprire gli occhi. Apri. La realtà si basa in quello che tocchi. Ma se credi che l'hip hop sia solo uno sfogo, no, frate, no, hai sbagliato gioco. Hip hop real sul posto, terzo king, CRN Crew, Family, 32 bis, Foggia. Dedica speciale ai miei fratellacci, non di sangue ma abbiamo lo stesso veleno nelle vene, questo è garantito. CRN Crew for life. Bella a tutti, ragazzi.